Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La manovra non convince Confindustria e sindacati, CGIL e UIL pronte allo sciopero, Squinzi, serve più coraggio, non si incide sul costo del lavoro. Tra poco intervista a Luigi Angeletti. Le misure della legge di stabilità, taglio da meno di 3 miliardi per il cuneo fiscale, scompaiono tare se IMU prima casa, arriva il TRISE, tributo su servizi comunali e rifiuti. Pripke, l'audio che avete sentito naturalmente viene dalla giornata di ieri ad Albano Laziale. Il prefetto è sotto accusa per le violenze ai funerali. Nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, la comunità ebraica dice: quel che abbiamo visto dimostra che il pericolo c'è ancora. Il presidente della commissione di vigilanza Rai Fico a Radio 24, Andrei, alla manifestazione a Sanremo e chiede che ci siano i compensi nei titoli di coda delle trasmissioni. Sciolto il comune di Sedriano in provincia di Milano per infiltrazioni mafiose, è il primo caso in Lombardia. Una buona giornata dunque da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, puntata particolarmente ricca e molto concentrata ovviamente sulla manovra che è stata varata nella notte dall'esecutivo. In apertura dunque torniamo su questo evidentemente e vediamo di fare un punto innanzitutto sulle misure, almeno a grandi linee, e poi sulle reazioni che hanno suscitato. È già sul tavolo di Bruxelles la legge di stabilità varata ieri sera dal governo, una manovra da 11,6 miliardi per il prossimo anno. Il cuore del provvedimento è il taglio del cuneo fiscale, che nel triennio 2014-2016 sarà di 5 miliardi per i lavoratori e 5,6 miliardi per le imprese. Altra novità è la TRISE, la nuova tassa sui servizi, che prenderà il posto dell'IMU e assorbirà anche la tassa sui rifiuti. Per il premier Letta, per la prima volta dopo anni, non ci sarà un aumento del carico fiscale, ma le parti sociali sono scettiche. Secondo il presidente di Confindustria Squinzi, era necessario più coraggio. I passi sarebbero anche nella direzione giusta, però ancora una volta sono passi che non sono sufficienti per farci ritrovare la crescita, perché non incidono realmente sul costo del lavoro che noi avevamo indicato come priorità assoluta sul cuneo fiscale. Spero che si possa intervenire ulteriormente e fare qualcosa di più. Contrariamente alle anticipazioni, nella legge di stabilità non ci sono nuovi tagli alla sanità né l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, ci sono invece nuove dismissioni del patrimonio pubblico per 1,5 miliardi e risparmi arriveranno anche dal pubblico impiego, per il quale è prevista la proroga del blocco dei contratti e una stretta sugli straordinari, misure contro le quali insorgono però i sindacati. CGIL e UIL non escludono scioperi a difesa degli statali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco ci collegheremo con il segretario della UIL, Luigi Angeletti. Io intanto saluto Dino Pesole del Sole 24 Ore, col quale vogliamo fare un punto e anche commentare questa manovra. Buongiorno Dino. Buongiorno Simone. Allora, un po' debole soprattutto dal lato del taglio del cuneo fiscale, appunto, come diceva Squinzi, Dino. Direi di sì, se questa doveva essere una manovra per dare la scossa all'economia così come si era immaginato, di scosse se ne vedono ben poche. Certo, è una manovra, forse la prima dopo alcuni anni, che comunque, qui parliamo delle cose positive, almeno non prevede tagli drastici alla spesa e aumenti di pressione fiscale, però appunto da una manovra che era poi stata annunciata anche da Letta con una certa enfasi, la manovra che avrebbe dovuto, la prima peraltro, pilotare il paese fuori dalla recessione, e devo dire che le misure sul fronte del cuneo fiscale sono un po' deboli. Forse sarebbe stato, stante e ferme le risorse che non sono molte, sarebbe stato più opportuno concentrare i 10 miliardi del triennio molto di più sul primo anno. E dunque dare un po' più una scossa nel primo anno di applicazione di una manovra che comunque ha un orizzonte triennale. Il governo non ha ritenuto di farlo e adesso vediamo il dibattito parlamentare se sarà possibile spostare l'orizzonte temporale delle risorse. E già da quelle parti qualcuno promette battaglia. Dino, tu dicevi senza incremento di pressione fiscale, in realtà aumenta la minimum patrimoniale sul deposito titoli e l'imposta di bollo sui documenti online, quindi da questo punto di vista qualcosa di fiscale, di intervento fiscale, di forse aumento di pressione c'è? Beh, certamente ci sono delle misure di aumento del prelievo, ma il saldo dovrebbe, perché qui usiamo sempre il condizionale d'obbligo soprattutto perché ancora non sappiamo quale sarà il carattere e la fisionomia della nuova imposta sui servizi, quella che sostituirà l'IMU per capirci. Comunque dai calcoli attuali del governo, nel bilanciamento dei nuovi incrementi fiscali e degli sconti che si avranno sulle buste paga, ancorché minime, ci sarà un leggero decremento della pressione fiscale. Ma da questo punto di vista c'è da essere molto accorti e guardinghi, perché come sappiamo quando poi nel nostro paese le imposte mutano nome e accorpano altre imposte c'è da aspettarsi un incremento, quindi aspettiamo un attimo anche per capire come il Parlamento reagirà in questi mesi a queste misure, perché è un disegno di legge, quindi aperto a modifiche naturalmente. Ed è proprio di questo che andiamo a parlare. Nel ringraziare Dino Pesole, saluto Piero Fassino, Presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto un giudizio generale su questa manovra. Mi pare che sia una manovra che avvia una strada diversa da quella delle manovre precedenti, perché c'è uno sforzo vero per ridurre il prelievo fiscale sul lavoro, c'è uno sforzo vero per garantire agli enti locali le risorse perché possano continuare a erogare i servizi fondamentali ai cittadini, e c'è uno sforzo vero per allocare le risorse possibili su crescita, sviluppo e investimenti. Quindi mi pare che da manovre che nel passato erano caratterizzate essenzialmente solo da tagli, qui mi pare ci sia uno sforzo vero per invece sostenere la crescita. Uno snodo centrale e che vi riguarda direttamente è quello del TRISE, iniziamo a chiamarlo nel modo giusto, col maschile, perché si tratta di un tributo, la T dell'acronimo sta per tributo. Molti paventano il rischio che alla fine la somma di tutto ciò sia superiore a IMU più TARES e quindi nella sostanza sia una bastonata. Ma noi abbiamo posto al governo tre questioni. La prima questione è che ci fosse un allentamento del patto di stabilità, e questo c'è per 1 miliardo di euro, e questo consente ai comuni di tornare ad avere spazi per investimenti. Avevamo chiesto che non ci fossero tagli per il 2014 nei trasferimenti, e anche questo è escluso, e abbiamo chiesto che la service tax sia configurata in ragione tale da garantire che quello che il cittadino paga con la nuova service tax sia inferiore a quello che avrebbe pagato con il TARES insieme. Qualora non fosse così, l'integrazione che è prevista da parte dello Stato di 1 miliardo agli enti comuni per garantire quell'esito dovrà essere aumentata in sede di conversione parlamentare. Credo che sia irrinunciabile non solo per i comuni ma per lo stesso governo che si vada verso un tributo che costi di meno ai cittadini di quello che costavano i tributi esistenti. Grazie a Piero Fassino per essere stato con noi, e noi veniamo all'altra notizia di giornata, ossia il funerale e la sepoltura di Erich Priebke. Ieri gli scontri ad Albano Laziale, oggi ancora non si sa quando e come si svolgeranno le esequie del boia delle Fosse Ardeatine. In tutto ciò oggi ricorrono i 70 anni dal rastrellamento del ghetto di Roma, fatti che si incrociano in queste ore. Dunque iniziamo però dal destino della salma dell'ex ufficiale nazista. Valeria De Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, da pochissimo è arrivata la smentita ufficiale di qualsiasi contatto, non solo dall'ambasciata tedesca a Roma ma anche dal ministero degli esteri tedesco, il quale ribadisce di non aver avuto alcun contatto ufficiale con le autorità a Roma proprio a proposito della possibilità di trasportare la salma di Priebke in Germania. Ricordiamo che attualmente la salma di Priebke è all'aeroporto militare di Pratica di Mare, potrebbe restare lì anche tutto il giorno se appunto nel frattempo non saranno trovate soluzioni che, come ricordavi, dovrebbero riguardare sia le esequie sia poi il luogo di sepoltura. Sugli scontri avvenuti ieri sera ad Albano Tra militanti di estrema destra e manifestanti anti-Priebke, il sindaco della cittadina dei Castelli ha ripetuto che era stato fatto tutto quanto fosse possibile per evitarli. L'ordinanza comunale vietava il passaggio della salma sul suolo di Albano, che ricordiamo è medaglia d'argento al valor civile per la resistenza, ma è stata poi superata dalle decisioni della prefettura di Roma, e sul prefetto Giuseppe Pecoraro si sono abbattute critiche feroci per tutta la giornata. Sui disordini, diciamo anche su come è stata gestita la situazione, abbiamo sentito poco fa il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ma io credo no, che non sia assolutamente sfuggita di mano. La città di Roma, attraverso la mia voce, che è quella che rappresenta la nostra comunità, ha detto immediatamente no a esequie pubbliche, no ad accoglienza della salma di un essere vivente che adesso è deceduto, ma che aveva da vivo inferto sofferenze inaudite alla popolazione della nostra città. Però delle responsabilità ci sono. Io non vedo nessuna responsabilità. La responsabilità di Roma è stata quella di negare accoglienza, e credo che questo fosse, se non un diritto di legge, un diritto di dignità della nostra città. Le decisioni che riguardano gli organi dello Stato sono qualcosa sul quale io non posso commentare. L'ultima cosa, Simone, è la seguente. Il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, presenterà un esposto denuncia in merito a quanto accaduto ieri ad Albano. L'obiettivo, secondo Fiore, degli attivisti della comunità ebraica romana e di alcuni estremisti di sinistra era quello di prendere la bara, oltraggiarla ed impedire un funerale. Questo è quanto ha dichiarato il segretario di Forza Nuova. Grazie Valeria De Rosa per questi aggiornamenti, e veniamo adesso alla giornata in ricordo di quel 16 ottobre del 43, 70 anni fa. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui alla sinagoga si è svolta questa mattina la cerimonia più solenne di una lunga giornata che vede Roma impegnata nella commemorazione appunto del 70° anniversario del rastrellamento nazista del ghetto. 1022 ebrei vennero avviati verso i campi di sterminio. Di questi 200 erano bambini, solo 16 tornarono da quell'inferno. Tante le autorità presenti, a partire dal capo dello Stato Napolitano, il sindaco di Roma Marino, i presidenti di Camera e Senato, e per il governo il vice premier Alfano, oltre naturalmente il rabbino capo di Segni, il presidente della comunità ebraica romana Pacifici. E Pacifici ha sollecitato il Parlamento ad approvare al più presto il DDL che punisce il reato di negazionismo, una medicina detto contro gli spacciatori di odio, richiesta alla quale ha risposto proprio qui Napolitano a margine. Sono convinto che l'iter sarà rapido, ma sentiamo la sua voce. È un significato di grande solidarietà con chi ha sofferto, con chi ha combattuto, con chi si è salvato e con chi è perito, ed è una giornata di grande coesione, come avete visto, civile e istituzionale, cattolici, musulmani, ebrei, credenti, non credenti, uomini di tutte le fedi. Grazie Alessandra Schepisi, sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Quel feretro con il corpo del criminale nazista Erich Priebke, trasportato in varie parti del paese, porta il peso di 335 vittime innocenti, trucidate nel marzo del 44 alle Fosse Ardeatine a Roma. Quella bara che di fatto nessuno vuole oggi rappresenta il passato che non passa, perché Priebke non si è mai pentito per i crimini efferati da lui commessi, anzi li ha confermati nel suo testamento video. Ma quali sono questi crimini? Il 24 marzo del 44, 335 persone venivano prelevate nei luoghi di detenzione, caricati su pullman e autocarri. Le vittime non conoscevano la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Venivano fatte scendere dai veicoli, trasferite a gruppi dentro le gallerie di tufo, uccise ad una con un colpo di pistola alla nuca. Alla fine del massacro i nazisti minavano le cave e le facevano saltare tentando di eliminare le prove della loro barbarie. I boia incaricati di queste operazioni erano il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kapp, Rappler, il colonnello dell'SS Eugen Dolman, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütz, il maggiore Karl Haas, il questore di Roma Piero Caruso, il responsabile del reparto speciale di polizia Pietro Koch. Questi sono i crimini di Priebke, quelli che i gruppi di estrema destra, protagonisti della gazzarra di ieri ad Albano Laziale, continuano di fatto a rivendicare nelle strade italiane. E tutto accade nel 70° anniversario dell'astrellamento del ghetto ebraico. Partivano tutti con destinazione Auschwitz. Pochissimi di loro sono tornati. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La manovra non convince Confindustria e sindacati, CGIL e UIL pronte allo sciopero, Squinzi dice serve più coraggio, non si incide sul costo del lavoro. Le misure della legge di stabilità, taglio da meno di 3 miliardi appunto per il cuneo fiscale, scompaiono tasse e IMU, prima casa, arriva il TRISE, tributo su servizi comunali e rifiuti, ancora incertezza se con questo si pagherà di più. Priebke, prefetto sotto accusa per le violenze ai funerali, nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, la comunità ebraica dice quel che abbiamo visto dimostra che il pericolo c'è ancora. Il presidente della commissione di vigilanza Rai, Fico, parla a Radio 24, dice Andrei alla manifestazione a Sanremo e chiede che ci siano i compensi nei titoli di coda delle trasmissioni. È stato sciolto il comune di Sedriano in provincia di Milano per infiltrazioni mafiose, è il primo caso in Lombardia. Infine una notizia di cronaca, appena battuta dalle agenzie, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia perché ha picchiato in ospedale il figlio di 3 mesi a Monza. E apriamo questa seconda parte salutando di nuovo nostro ospite a circa una settimana di distanza, il leader della UIL, Luigi Angeletti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Anzi, bentornato in realtà. Allora, pronti allo sciopero? Adesso il problema non è dichiarare sciopero, è una cosa che valuteremo nei prossimi giorni. La vera questione è far comprendere che questa legge di stabilità ha avuto forse solo l'effetto di stabilizzare il governo, ma gli effetti sulla economia sono vicini allo zero. Si era detto da parte del governo, come da tante fonti autorevoli a livello internazionale, che il problema dell'Italia fosse la bassa crescita e per superare questo impasse bisognava agire soprattutto sulle tasse sul lavoro e come leva per far crescere l'economia, i consumi interni e quindi l'occupazione. Da questo punto di vista la scelta del governo è stata assolutamente quasi una finzione. La conseguenza sarà che anche la crescita sarà una finzione. L'unica cosa reale saranno il numero dei disoccupati e soprattutto dei giovani che non troveranno sempre meno lavoro. Perché 2,7 miliardi nel 2014 di taglio del cuneo fiscale, dite, è pochino. Già a questi microfoni ci aveva detto ce ne vorrebbero almeno 10, quindi... Esattamente. Per fare un esempio... La Francia, che non è l'America nel senso delle dimensioni economiche, ha deciso nello stesso periodo di ridurre di 10 miliardi le tasse sul lavoro e ha condizioni anche migliori delle nostre. Senti una cosa, invece per quanto riguarda il modo nel quale vengono recuperate le risorse, che evidentemente comunque sono poche, gli interventi sul pubblico impiego vi convincono? No, quelle sono una cosa incredibile, anch'essa contraddittoria, si è discusso per anni che bisognava smetterla di fare tagli lineari nella pubblica amministrazione. Che cosa c'è di più lineare che tagliare gli stipendi a tutti i dipendenti pubblici quando, come è noto, ci saranno condizioni di lavoro, redditività, produttività differenziate? Banalmente e semplicemente perché non si è mai avuto il coraggio di fare le cose che sono ragionevoli, cioè di intervenire nella pubblica amministrazione in termini di efficienza e di produttività come avviene in qualunque impresa nel mondo, non dico in Italia. Il governo ha fatto una scelta molto chiara a mio avviso, cioè ha accuratamente evitato di fare qualunque provvedimento che disturbasse la maggioranza che lo sostiene. Il CGIL CISL UIL, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con il Presidente del Consiglio, abbiamo proposto dei tagli, cioè delle riduzioni di sprechi, in maniera circostanziata, non in termini generali. Gli abbiamo detto dove, come e quanti soldi era realistico recuperare da questa operazione. Ovviamente non se ne è fatto nulla. Quindi dice lei, l'unico obiettivo di questa manovra è la stabilità di governo. Eh sì, infatti credo che è l'unica cosa, è l'unico risultato, no? Cioè, non lo dice un sindacalista che, come è noto, potrebbe essere accusato di tutto, ma tutti gli osservatori neutrali, normali, dicono che non ci sarà nessun effetto positivo per quanto riguarda la crescita dell'economia. Spera che il cambiamento, il Parlamento la cambi naturalmente questa. Spero che si rendano conto delle condizioni in cui si trovano i cittadini italiani e se si continuano a trastullarsi per 3-4 mesi sull'IMU, poi ai prossimi 3-4 mesi sull'indulto, amnistia e Berlusconi, no? I cittadini italiani hanno problemi un po' più seri, soprattutto quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro o quelli che lo cercano. Grazie, grazie Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, per essere tornato da noi e buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Noi adesso ci occupiamo di RAI. Come sapete, in queste settimane ci sono state molte polemiche in merito ai compensi dei conduttori e in particolare ai compensi di Fabio Fazio. C'è stata una battaglia portata avanti da Renato Brunetta e poi dal Movimento 5 Stelle. Bene, questa mattina il Presidente della Commissione di Vigilanza RAI è intervenuto ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino e dice sono andato a mille manifestazione e continuerei ad andare. Questo è riferimento ad una domanda su un'eventuale partecipazione alla manifestazione lanciata da Grillo contro il contratto di Fazio proprio a Sanremo. Fico aggiunge sui compensi trasparenza totale e lancia un'idea. Sentiamo. No, io le dico che dal mio ruolo come presidente della vigilanza RAI voglio che Sanremo sia totalmente trasparente e che la commissione si occupi della trasparenza di Sanremo al 100% come di tutte le altre trasmissioni. Io nell'ultima commissione di vigilanza ho proposto che a fine di ogni trasmissione ci sia un bilancio della stessa trasmissione chiaro, dove vengono spiegati tutti quanti i costi ai cittadini e soprattutto vogliamo sapere, e lo sapremo secondo me mettendo nel nuovo contratto di servizio, quale trasmissione è finanziata dal canone, quale no e che parte e che percentuale. Si chiama contabilità separata. Sì, ma come, è resa nota come, non so, nella sigla, nei titoli di coda, tramite un bollino verde. Cioè questa trasmissione è costata tot, per dirle. Certo, è una mia proposta, vorrei un bilancio chiaro delle trasmissioni. Allora, adesso cambiamo argomento perché, insomma, come sapete il Movimento 5 Stelle fa anche una battaglia, oggi se ne torna a discutere tra l'altro, sul finanziamento pubblico ai partiti. Su questo tema, e chiedo a Gianmarco Ferronato che è in regia di preparare il servizio di Alessandro Merli su Angela Merkel, perché c'è una storia che arriva proprio dalla Germania. Allora, sentiamo di cosa si tratta. Vivaci polemiche in Germania dopo la rivelazione che tre esponenti della famiglia Quandt, proprietari della casa automobilistica BMW, hanno fatto una donazione da quasi 700.000 euro al partito del cancelliere Angela Merkel. Il contributo è il più alto mai dato da un privato a un partito politico in Germania ed è emerso sul sito del Parlamento tedesco proprio un giorno dopo che il governo della signora Merkel è riuscito a bloccare in sede europea una nuova normativa sui gas di scarico delle auto che avrebbe penalizzato la BMW e gli altri costruttori tedeschi di vetture di grossa cilindrata. Anche se un portavoce della BMW ha dichiarato che le donazioni non sono legate ad alcune decisioni di politica industriale, diversi gruppi che si battono per la trasparenza della politica in Germania hanno sollevato obiezioni e chiesto una riforma dei finanziamenti privati ai partiti. Il cancelliere Merkel è intervenuta personalmente nelle settimane scorse per far rinviare la decisione europea sui gas di scarico che avrebbe favorito i costruttori di auto più piccole come quelli di Francia e Italia e penalizzato le grosse cilindrate che rappresentano la maggior parte della produzione tedesca. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Restiamo all'estero con un altro tema in primo piano, che è la scadenza in arrivo negli Stati Uniti, dove si tratta ancora per l'innalzamento del tetto del debito. L'America è appesa a un filo e quel filo passa per il Senato. La trattativa per innalzare il tetto sul debito statunitense è ripartita infatti nella notte, dopo che ieri l'accordo fra repubblicani e democratici si è arenato alla Camera. I leader del Senato, il democratico Harry Reid e il repubblicano Mitch McConnell, hanno fatto sapere di essere impegnati a mettere a punto un'intesa che potrebbe essere ufficializzata fra poche ore. Il compromesso prevede che si aumenti il tetto del debito fino al 15 di febbraio. Senza un accordo in estremis, la prima economia mondiale sarà però costretta a dichiarare default. Il tesoro si troverà nella situazione di non avere più la liquidità necessaria per far fronte a tutti gli obblighi dello Stato. Una situazione che, se si verificasse davvero, avrebbe ripercussioni pesanti sui pensionati e sui dipendenti pubblici americani, ma anche per gli investitori stranieri e per i mercati internazionali. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso veniamo ad un'altra storia, una storia di cronaca italiana. Perché? Perché oggi, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è il primo comune della Lombardia sciolto per infiltrazioni mafiose, dell''Ndrangheta in particolare. Una decisione presa al Consiglio dei Ministri di questa notte, che evidentemente, come avete capito, non si è occupato solamente di legge di stabilità. Sedriano insieme a Ciro Marina in Calabria. Saluto David Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, è un segnale forte dal governo? Ma un segnale forte che purtroppo ci aspettavamo. E chiaramente questa è una norma di prevenzione che tutela i cittadini del comune di Sedriano. La commissione che ha valutato la possibilità che il comune fosse sciolto era da mesi che lavorava. Il sindaco, nonostante le tante manifestazioni e tante pressioni, non si è mai voluto dimettere e quindi non è accaduto quello che fortunatamente o fortunatamente politicamente in maniera positiva era accaduto nel comune di Desio. Anche lì si aspettava la commissione prefettizia, in quel caso i consiglieri comunali, non tutti, decisero di dimettersi e Desio si salvò dal commissariamento. Adesso ha un bravissimo sindaco che opera con grande rigore. Questo non è accaduto a Sedriano e ci sono delle responsabilità non solo del sindaco, ma anche dei partiti politici che lo hanno sostenuto in questi mesi. Gentili, a che livello sono arrivate le infiltrazioni mafiose a Sedriano? Allora, a Sedriano era presente, così si legge, il processo inizierà a breve nell'ordinanza di custodia cautelare, ma anche negli atti successivi era presente due cosche, una militare di Grillo Mancuso e l'altra facente capo ad Agostino dei Morabito Bruzzaniti Palamara. È importante dire questi cognomi perché ci fanno toccare con mano quello che è accaduto nei nostri territori. E qui estorsioni e qui interessi negli appalti dei comuni, in particolare Sedriano, e qui la figlia di uno dei boss dentro il consiglio comunale, la moglie di un'altra persona, raccordo tra la politica e i boss, anche lei eletta in consiglio comunale a Sedriano. Quindi c'era una presenza, non solo una pressione esterna, ma una presenza nell'istituzione. Interna nell'istituzione. Allora, Gentili, noi adesso abbiamo una pausa, io però poi la vorrei riprendere subito dopo questa pausa, perché voglio capire da lei quanti sono a questo punto i comuni a rischio nella cintura milanese. A tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La manovra non convince Confindustria e sindacati. Squinzi dice che serve più coraggio e non si incide sul costo del lavoro. Angeletti della UIL poco fa ai nostri microfoni dice serve solo a preservare la stabilità di governo. Le misure sono un taglio da meno di 3 miliardi per il cuneo fiscale. Scompaiono Tares e IMU prima casa, arriva il Trise, il tributo sui servizi comunali e per i rifiuti. Il prefetto di Roma sotto accusa per le violenze ai funerali di Pripke. Nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, la comunità ebraica dice quel che abbiamo visto dimostra che il pericolo c'è ancora. È stato sciolto il comune di Sedriano in provincia di Milano per infiltrazioni mafiose, il primo caso in Lombardia. E adesso torniamo proprio a parlare di questo, perché eravamo al telefono, insomma, prima della pausa, appunto, con David Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, col quale avevamo lasciato in sospesa una domanda. Quanti comuni della cintura milanese, Gentili, sono a rischio scioglimento, secondo lei? L'inchiesta che porta al commissariamento di Sedriano è un'inchiesta che coinvolge la Regione Lombardia e anche le elezioni del Comune di Milano, per cui c'è la questione del voto di scambio mafioso che per la prima volta in Lombardia emerge ed è un caso abbastanza unico in tutta Italia come un capo di imputazione, e all'interno di questo capo di imputazione si coglie non solo l'accusa all'ex assessore Zambetti alla casa di aver acquistato circa 4.000 voti da persone legate alla mafia, ma emerge anche l'insistenza con cui alcuni cercano i voti da questi personaggi anche per le elezioni del Comune di Milano del 2011, in particolare per un candidato che poi non fu però eletto, e dalle intercettazioni emergeva che la richiesta era stata fatta fuori tempo massimo. Quindi al di là dei piccoli comuni della provincia è un intero mondo che viene colpito in Regione Lombardia da questa inchiesta. Cioè poi potrebbe, mi scusi Gentili, molto brutalmente e molto brevemente, ma secondo lei si potrebbe arrivare allo scioglimento del Comune di Milano? No, non ci sono assolutamente queste prerogative, però gli interessi di queste persone erano legate proprio alle elezioni. Noi abbiamo più volte visto all'interno dei comuni della cintura milanese non solo il sostegno a quel candidato, ma per esempio nelle elezioni di Cogno Monzese anche lì la candidatura del figlio del boss, come avviene a Sedriano. E poi c'è questo interesse che emerge chiaramente sulle elezioni anche di Milano per un candidato. Per le elezioni di Milano. La ringrazio, grazie Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, per essere stato con noi. Buona giornata. Adesso è il momento del nostro quotidiano viaggio che dedichiamo alla situazione carceraria. Oggi Raffaella Calandra ci porta sul Mona. Fino ad oggi i suicidi sono stati già 40 e 125 nel 2013 le morti avvenute dietro le sbarre per le più varie e non sempre accertate ragioni. E la violenza contro se stessi, il più tragico epilogo di condizioni carcerarie a volte non più sostenibili. Si tolgono la vita ai detenuti, ma pure gli operatori. Negli ultimi mesi l'hanno fatto due ispettori. Quando si parla di morte violenta in cella è subito a Sulmona, in Abruzzo, che si pensa a questa struttura dove in 15 anni su 21 dall'apertura si sono contati ben 10 suicidi, compreso quello della direttrice. I sindacati tuttora continuano a denunciare picchi di problemi sanitari tra gli agenti penitenziari, di sicuro troppo pochi, 264 quelli realmente in servizio in un carcere che conta 450 detenuti ad alta sicurezza e 150 ergastolani veri. Servirebbero almeno altri 30 agenti, ammette il neo direttore Massimo Di Rienzo, che si divide tra Sulmona e Basto. Il lavoro a contatto con un'umanità molto problematica, un'umanità sofferente, è un lavoro che logora, pone una serie di problemi anche di gestione. Quest'estate c'è stato un problema di legionella in questo carcere, dove non è il sovraffollamento in realtà il vero problema, e il dibattito su indulto e amnistia arriva solo come un'eco lontana, anche se questa, secondo il direttore, potrebbe essere l'occasione per allargare la discussione. Qualcuno ha detto una volta tutto, io ormai non ci penso neanche più alla libertà. Era uno che stava lendo da 33 anni, praticamente aveva perso qualsiasi stimolo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Varata la manovra, si apre lo scontro politico. Sandro Bondi dice: così si muore, tasse camuffate. La legge di stabilità non piace a Confindustria e sindacati. Squinzi dice: serve più coraggio, non si incide sul costo del lavoro. Pripke, il prefetto sotto accusa per le violenze ai funerali. Nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, la comunità ebraica dice: quel che abbiamo visto dimostra che il pericolo c'è ancora. Il presidente della commissione di vigilanza Rai, Fico, a Radio 24, dice: andrei alla manifestazione a Sanremo proclamata da Beppe Grillo.

Se volete, scriveteci anche proprio sulla nostra pagina Facebook per capire se aderite allo sciopero della fame, almeno per un giorno, proclamato da Roberto Giachetti per il cambiamento della legge elettorale, perché insomma vogliamo cercare di ospitare una persona al giorno, se ci riusciamo. Un ringraziamento, Effetto Giorno naturalmente torna domani alle 13, noi ci sentiamo tra poco con il giornale radio.